Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, benvenuti ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di due libri di storia italiana e di storia economica italiana. Parliamo in fondo delle radici dell'economia italiana di questo dopoguerra. Lo facciamo con la professoressa Francesca Fauri. Buonasera, professoressa. Buonasera. Francesca Fauri insegna storia economica dell'Europa contemporanea nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna ed ha scritto il libro Piano Marshall e l'Italia. Ma parliamo poi anche di un altro libro di Valerio Castronovo. Buonasera, Castronovo. Buonasera. Valerio Castronovo, già docente di storia contemporanea all'Università di Torino, direttore della rivista di scienze e storia Prometeo, collaboratore editorialista del Sole 24 Ore, ha scritto un agile volume sull'Italia del miracolo economico. Io partirei anche per dovere di galateo, ma anche per questioni storiche. Il piano Marshall viene prima del miracolo economico, in qualche modo ne ha posto le basi. Parliamo di questo libro sul piano Marshall e l'Italia di Francesca Fauri. Allora, professoressa Fauri, come mai hai dato questo interesse per approfondire un tema che doveva essere riservato ai libri di storia, ma a quelli già scritti, non tanto a quelli da scrivere? Sì, questo è vero, è un interesse di lunga data, risale addirittura ai miei anni del dottorato, e è un tema che mi ha sempre molto coinvolto, perché gli anni del piano Marshall sono stati anni di svolta per l'economia soprattutto, ma io ho guardato in particolare l'industria, e per l'industria sono stati anni di grande innovazione tecnologica. Si è riusciti in questi anni ad avvicinarsi alla frontiera tecnologica grazie al fatto che i macchinari si compravano proprio sul mercato all'avanguardia per quanto riguarda la scienza e la tecnica, che era quello americano. Quindi questi aiuti erano così indirizzati, appunto, nel caso dell'industria, verso questa upgrading tecnologico, sono stati di estremo aiuto e, diciamo, hanno dato una mano importante a quello che sarà il successivo miracolo economico. Ecco, hanno aumentato, quindi, produzione e produttività. Certo, quindi il piano Marshall, che normalmente viene considerato come un trasferimento di risorse, come il fatto che l'America ha dato all'Europa diciamo dei capitali per cercare di riprendersi dopo la guerra, non è stato solo questo, ma è stato anche l'apertura di un mercato, l'apertura di un trasferimento tecnologico e quindi l'apertura a una modernizzazione più forte. Esattamente, non solo, vorrei aggiungere solo due cose che forse ben si collegano a quello che dirà poi il collega. Secondo me l'altro vincolo positivo che pose il piano Marshall agli europei furono due in sostanza. Uno fu quello di costringere appunto gli alleati a fidarsi del mercato, dimenticare gli anni dell'autarchia, abolire i contingentamenti, cioè le quote sul commercio, e quindi aprirsi di nuovo alla liberalizzazione del mercato, cosa che si era dimenticata negli anni precedenti e anche negli anni 30, e quindi andare verso poi successivamente il secondo punto a costruire un'Europa, un mercato comune. Sono stati gli americani i primi a dirlo agli europei, i quali naturalmente si rifiutarono di farlo inizialmente, i tentativi furono tutti fallimentari. Tuttavia fu proprio l'America che li costrinse a cooperare per un fine comune, per la costruzione dell'integrazione economica europea. C'è qualcosa nel piano Marshall, professoressa Fauri, che potrebbe essere ripreso adesso in questa fase in cui si sta cercando da una parte un exit strategy dalla crisi che ha sconvolto l'economia internazionale negli ultimi anni e che sta cercando appunto delle motivazioni per rilanciare, delle forze per rilanciare l'economia? È pensabile di attualizzare in qualche modo qualcosa di simile a un piano Marshall? È difficile fare un paragone con i tempi in cui appunto che stiamo vivendo adesso e quelli del piano Marshall. Sicuramente molte cose forse potremmo ancora imparare dal piano Marshall. Sicuramente l'altra cosa che mi ha stupito, oltre le modalità in cui venivano dati questi aiuti, che erano appunto aiuti, beni materiali, ricordo, non finanziamenti, quindi questa un po' fu la novità di quel periodo, e anche l'entusiasmo che ha contraddistinto coloro che hanno lavorato per la distribuzione degli aiuti, sia da parte americana che da parte italiana. Non so, forse perché c'era stato un conflitto, quindi è difficile il paragone. C'era l'entusiasmo della ripresa, del voler lavorare insieme, del voler costruire un'Italia nuova. Quindi questo è molto, molto diverso appunto come periodo, e comunque questo mi ha colpito, ecco. Penso che un po' di più di entusiasmo, di voglia di lavorare, di credere un po' in quello che si fa, forse di questo ci sarebbe bisogno anche oggi. Certo, l'entusiasmo è una componente fondamentale di ogni crescita economica. Resti con noi, parliamo col professor Valerio Castronovo. L'Italia del miracolo economico, il piano Marshall è stato un elemento fondamentale dello sviluppo che poi ha avuto l'Italia negli anni 50 e soprattutto 60. Ma certamente sì, ma io direi che soprattutto il piano Marshall ha contribuito alla ricostruzione post-bellica di un paese, diciamo, in macerie, tante macerie al sud, anche se molte fabbriche del nord, tutto sommato, avevano accusato perdite del 10-15% degli impianti. Sono d'accordo anche con la collega per quanto riguarda la gran voglia di fare, di ricostruire, di tornare padroni del proprio destino degli italiani nel secondo dopoguerra, al di là delle contrapposizioni politiche e ideologiche molto profonde che dividevano il paese, come sappiamo, soprattutto negli anni fra il 45 e il 48, ma anche dopo l'attentato del luglio 48 a Togliatti. Ma direi che a questo punto, per quanto riguarda il periodo successivo, certamente ciò che in pratica indusse il paese a uscire fuori intanto da un regime protezionistico che, al di là insomma della fine del fascismo e della guerra, era rimasto in gran parte in piedi, fu diciamo l'adesione alla comunità economica europea, che avvenne appunto nel 57. Non a caso, anche se allora le vecchie barriere protezionistiche furono smantellate progressivamente, ma è anche vero che gli anni del miracolo economico, che sono gli anni soprattutto 59, 60, 61, furono proprio, diciamo, il corollario di questa progressiva liberalizzazione degli scambi e della necessità per l'Italia di cominciare a competere sul mercato internazionale. Direi poi che fu molto importante, come poi lo è stato in tanti periodi e tornanti cruciali della nostra storia economica, non solo economica, l'azione della Banca d'Italia. C'erano gli anni, nel 1960 addirittura l'Italia vinse l'Oscar della Lira, che poi l'Oscar delle monete, che poi non mi pare fu mai più assegnato a nessun'altra moneta, peraltro. No, ancora nel 63, lo riprendemmo con Guido Carli, ma ci fu assegnata nel 60, ma rispetto all'andamento della nostra lira nel 59, e c'era ancora a capo della Banca d'Italia Donato Menichella. E in pratica, insieme a Donato Menichella, va considerata l'opera prima di salvataggio della lira nel 47 da parte di Luigi Einaudi, poi nel 48 Luigi Einaudi ascese al Quirinale, ma continuò a seguire, diciamo, la politica economica italiana, a dare consigli, a dare, insomma, ad ammonire, a osservare, a tenere sotto stretta osservazione, insomma, l'andamento del nostro sistema monetario e anche dei nostri rapporti commerciali. Ecco, professor Castronovo, che cosa poi spezzò questo periodo felice, questo periodo di crescita, questo periodo in cui, pur con molti contrasti, ricordiamo anche le migrazioni dal sud al nord, i bassi salari, la motorizzazione un po' convulsa che ci fu in quel periodo, ecco, che cosa spezzò poi questo miracolo economico? Intanto, ecco, occorre dire, io vorrei ancora dire, la base del nostro miracolo economico fu una sorta di sinergia fra mano pubblica e mano privata. Non dobbiamo dimenticarci, insomma, il ruolo che ebbe l'IRI col piano per la siderurgia integrale di Oscar Sinigaglia, e faccio dei nomi naturalmente, come anche il fatto che l'AGIP e poi l'ENI cercò di colmare quelle che erano, insomma, le defaillance nostre per quanto riguardava il rifornimento di greggio, di metano, di gas, insomma, e questo fu anche importante, così come fu importante il lavoro di tutta una schiera di imprenditori, e cito soltanto per tutti, naturalmente, uno Angelo Costa, leader della Confindustria, e Vittorio Valletta alla Fiat, ma anche Giovanni Borghi al fiere, diciamo, di una nuova imprenditorialità. Oddio, certamente fu anche l'epoca della prima ventata di benessere, lì veramente non ci fu solo un'incipiente motorizzazione di massa, ma fu la familiarità che gli italiani, soprattutto nelle regioni del nord-ovest all'inizio, presero con tutta una serie di beni di consumo durevoli, elettrodomestici, frigoriferi, televisori e via dicendo. C'era una grande domanda potenziale in fondo una grande domanda potenziale, perché venivamo dalle privazioni, dalle sofferenze del dopoguerra ancora, non solo della guerra ma del dopoguerra. E certamente ci furono, diciamo, ci fu un regime anche di bassi salari, però con alcune variazioni a seconda che si trattasse di grandi imprese dove i salari erano certamente più elevati rispetto alle medie grandi imprese. Come mai finì? Certamente, intanto, diciamo, il fenomeno dell'immigrazione all'inizio venne considerato un fenomeno di segno positivo, perché voleva dire emancipare tanta gente del sud ridotta a un'economia di sussistenza e entrare nel mondo della fabbrica, che voleva anche dire, no, per quanto riguardava i propri diritti civili, la propria emancipazione, voleva dire, diciamo, era un fenomeno molto positivo. Diciamo che tutto sommato si subì una recessione nel 62-63 e certamente si interruppe un po' molto questo moto espansivo per via della, diciamo, delle forti divergenze che insorsero per quanto riguardava il primo programma del centro-sinistra, che contemplava la nazionalizzazione dell'energia elettrica. È vero, dietro, diciamo, l'energia elettrica monopolizzata da grandi gruppi oligopolistici, a cominciare dalla Edison, il fenomeno della nazionalizzazione fu dovuta certamente al fatto di dover espandere la rete, diciamo, la rete elettrica anche, certo, a molte regioni del sud che ne erano sprovviste. Rimase il fatto che lì si creò come un collo di bottiglia, quasi un cortocircuito tra politica ed economia, che poi mise appunto in difficoltà la stessa crescita economica. Ecco, stiamo chiudendo. Io chiederei alla professoressa Fauri, proprio guardando ancora al passato, quale può essere l'indicazione di fondo che dal piano Marshall può restare di attualità al di là di questa fase o di quella passata, la motivazione di fondo di questo piano che è servito così tanto a sbloccare le economie dopo la fine della guerra. Professoressa Fauri. Sì, beh, la motivazione di fondo degli americani era di rimettere in piedi l'Europa, si legge dappertutto nei loro documenti. Naturalmente il fine ultimo era polivalente, nel senso che c'erano fini militari e oltre a fini economici, però insomma l'idea era far lavorare gli europei in modo da riuscire a creare un'Europa indipendente e forte. L'idea era questa, un altro mercato chiaramente forte come quello americano, che potesse poi in futuro rappresentare anche un partner commerciale importante come era stato in passato. Quindi l'idea era proprio di creare una nuova Europa e possibilmente anche unita sul modello degli Stati Uniti d'America. Nei primi documenti si legge proprio gli Stati Uniti d'Europa, questa era l'idea degli americani, che purtroppo non è andata. Beh, comunque resta ancora un problema aperto, resta ancora una possibilità, una potenzialità, indubbiamente andare nella direzione di un'Europa più forte, soprattutto in questa fase, appare fondamentale. Io ringrazio la professoressa Francesca Fauri, autrice del Piano Marshall e l'Italia, edito dal Mulino, 282 pagine, 22 euro, così come ringrazio Valerio Castronovo, autore del libro L'Italia del miracolo economico, edito dalla Terza, 156 pagine, 10 euro. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Questo programma, come tutti gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.